È un disco che terrei come colonna sonora per il festival In mezzo scorre il fiume. Il titolo semplicemente è Colline. Abbiamo parlato insieme a Luisa Cottifogli di Riccardo Tesi. Ecco, Riccardo Tesi è l'autore insieme a Vailante e Trovesi di questo lavoro per la Silex, dal titolo semplicemente Colline, un disco secondo me meraviglioso. Sono arrivate le sensazioni di altri luoghi, di commento musicale con la natura, poi in seguito tanti musicisti hanno avuto modo di dare con altrettanto talento, non so, ad esempio Carlo Maver e tanti altri. Colline è stato uno dei primi dischi ad avere questa attenzione, un disco oltre alla presenza di Trovesi che state ascoltando, un disco meraviglioso. Il progetto di Riccardo Tesi è tra gli artisti, insomma, qui nella estesissima rassegna di Mezzo scorre il fiume. Beh, sarà mercoledì 3 luglio al chiostro di Santa Maria in Regola, gioiello storico di Imola. Beh, ovviamente ci sarà da consultare tutto il programma, però insomma, per quanto riguarda la colonna sonora proposta, ecco, Riccardo Tesi sarà mercoledì 3 luglio in quel di Imola. Il punto focale di questo è sicuramente l'attenzione alla natura, alla biodiversità. Il festival infatti nasce proprio da una lotta nel 2019 contro il taglio degli alberi effettuati sul Santerno da una ditta che ha fatto dei disastri, per cui in quel momento io ho lottato a livello, cioè, di denunce e così, poi mi sono detta, insomma, io ho delle armi forse più potenti, perché sono armi che bypassano la logica e vanno dirette all'emozione, no? E quindi ho organizzato un flash mob a marzo del 2019. In questo flash mob, sotto un drammatico cumulo di alberi, di rami, sono arrivati dei musicisti un po' da tutta Italia a suonare, e le persone hanno partecipato, abbiamo finito cantando tutti insieme ed è stata una cosa stupenda che mi ha aperto il cuore finalmente e mi ha fatto dire, insomma, la mia arma più potente è questa, cioè il fatto di, come artista, di chiamare degli altri artisti e quindi in questo modo puntare i fari sul territorio. Messo assieme Telephone Tel Aviv con John Hassell, quindi sentito la